visto che ieri era San Valentino, permettetemi di occuparmi dei due innamorati, di cui peraltro nella settimana scorsa hanno già trattato diversi giornali. Si tratta, non ve ne stupiate, di Roy e Silo, due pinguini ospiti dello zoo del Central Park a New York. Sono, sotto tutti gli aspetti, due amanti modello. Inseparabili da 6 anni, che per un pinguino non è poco, esibiscono, stando almeno a Repubblica dell'8 febbraio, che riporta un servizio del New York Times, esibiscono quello che nel gergo dei pinguini, o più probabilmente in quello degli studiosi che se ne occupano, si chiama comunemente comportamento estatico. Vale a dire, spiega il giornale, che se ne stanno appoggiati l'uno sulla spalla dell'altro, si lanciano richiami e fanno sesso. Niente da giustificare in realtà, niente da giustificare l'interessamento dei media, perché sono tutte cose che gli innamorati fanno da sempre, a qualsiasi specie animale appartengano. Ma sapete anche voi quanto sono pettegoli e conformisti gli operatori dell'informazione? Roy e Silo sono ambedue maschi e sembra che anche negli Stati Uniti basti questo per fare della loro storia un fatto di cronaca. Secondo la giornalista dell'NYT che si è occupata della faccenda, i due pennuti, dovendo antropomorfizzare un po', sono pinguini gay. In effetti si direbbe che una volta tanto l'antropomorfizzazione non sia del tutto arbitraria. Quando è stata presentata a loro una pinguina, si legge, entrambi si sono categoricamente tirati indietro e anche le femmine della loro specie non paiono interessate a loro. Tuttavia, più fortunati dei loro omologhi umani, vessati in buona parte del mondo da leggi bigotte e intolleranti, i due hanno potuto accedere all'esperienza dell'adozione. Rob Grunsey, che è il loro custode, ha provato a consegnargli un uovo fecondato e quelli se lo sono covato per i 34 giorni regolamentari fino alla nascita di una pulcina, che hanno poi accudito con cura e perizia finché non ha raggiunto l'età per cavarsela da sola. Una bella storia, mi sembra, una bella storia sulla cui morale si dovrebbe meditare, non diversamente da quanto si fa con tanti altri racconti che hanno per protagonisti degli animali. Quella di Roy e Silo, tuttavia, non è una favola. Il loro caso, che non è tra parentesi affatto unico nemmeno negli ambienti ristretti dello zoo del Central Park e dell'acquario di Coney Island, è finito sotto i riflettori della stampa per via del dibattito così vivace in America in fase preelettorale sui risvolti legali dell'omosessualità umana. Risvolti che vanno dal problema del matrimonio dei gay alle vecchie leggi contro la sodomia che molti stati si ostinano a mantenere in vigore. Anche se gli scienziati in questi casi sono comprensibilmente resti a generalizzare e estrapolare, c'è chi lo fa per loro. Così i gruppi gay sostengono che se il comportamento omosessuale è presente tra gli animali non può certo definirsi, secondo la nota formula, contro natura, per cui non dovrebbe essere censurato sul piano morale e legale. Meno legati all'ideologia russoviana, i loro avversari, specie se appartenenti a gruppi religiosi di stampo fondamentalista, ribattono che quei comportamenti vanno perseguiti e preclusi per legge proprio in quanto animali. È una questione, naturalmente, di punti di vista. Se volete un'opinione mia personale, il dibattito mi sembra singolarmente mal posto. Non crederò mai, ma mai, che qualsiasi discorso sul comportamento naturale dei nostri confratelli animali possa influire sulla realtà repressiva di quelle o altre leggi. La difesa dei diritti dei gay è sacrosanta, ma va ovviamente affidata, più che a un'analogia che lascia il tempo che trova, anche perché non si vede cosa ci sia di naturale nella vita di due creature costrette, poveretti, loro in uno zoo, dovrebbe essere affidata a una seria riflessione sulla libertà umana, che è appunto quello da cui certi ambienti, più che da ogni altra cosa, rifuggono. Però è curioso. È curioso, lo ammetterete, che ci si continui ad accanire oggi sul vecchio concetto tomistico e aristotelico del secondo natura, è quello che già metteva in tanto imbarazzo Dante nel 15° canto dell'Inferno. E Dante e i suoi contemporanei, se non altro, avevano della natura una concezione abbastanza vaga. a metà tra il paradigma scientifico e l'imposta religiosa, per cui potevano tranquillamente metterci o escluderci tutto quello che volevano o non volevano. Noi, figli più o meno devoti della rivoluzione scientifica ed eredi in un modo o nell'altro di quel Galileo cui persino Papa Wojtyła ha sentito il bisogno di chiedere scusa, noi abbiamo molta meno libertà di movimento. Dovremmo sapere come minimo che salvo le convenzioni morali e religiose non si può dare natura fuori dal regno della necessità, quale definito dalle leggi scientifiche che di volta in volta poniamo. Che può sembrare un'affermazione complicata, ma vuol dire semplicemente che qualcosa contro natura non è né punibile né deprecabile, ma semplicemente impossibile. Non è che fosse depresso, il termine giusto era malato. Come non ci segniamo di stabilire una pena per chi dovesse violare la legge di gravità, non dovremmo avere bisogno di precludere per via legale dei comportamenti che, se la natura non li prevedesse, non si darebbero affatto. Attenendoci alle categorizzazioni correnti, insomma, saremmo costretti a riconoscere alle leggi di natura e ai comportamenti naturali quel tanto di ineluttabilità che impedisce di farne oggetto di legislazione positiva, a meno di assumerci la responsabilità tutt'altro che indifferente di cambiare le carte categoriali in tavola, rinunciando, oltre che alla scienza, alla tecnologia che su essa si fonda. Il problema, in altre parole, dovrebbe essere tutto di coerenza teorica. Dovrebbe, perché quando qualcuno ha voglia o interesse di vietare qualcosa a qualcun altro, non si fa certo impressionare dalle contraddizioni della teoria dello stato di natura o da quelle della cultura corrente. Quando si tratta di imporre agli altri la propria volontà o i propri modelli, di salvaguardare le istituzioni da cui dipende il proprio potere, la famiglia per dirne una, non c'è coerenza che tenga. Se il richiamo alla natura non basta, si può sempre ricorrere a qualcosa d'altro. E si troverà sempre una tradizione, un libro sacro, un'esplicita dichiarazione dello Spirito Santo di chi per lui lo si è già fatto tante volte. Roy e Silo non lo sanno, perché i pinguini, beati loro, di certe cose non si occupano. Ma tra noi umani i dadi del potere sono sempre truccati.